Lamberta, una donna che non potrò mai più dimenticare perché con lei ho condiviso più di 68 anni della mia vita terrena. Anzi, è colei che mi ha messo al mondo. Sì. Sto parlando di mia madre, la quale, dopo aver partorito mia sorella gemella, con sua grande sorpresa ha fatto entrare me in questo mondo. Io e mia sorella siamo nati il 26 maggio del 1943, in tempo di guerra. E mio padre era già ammalato di quella malattia che lo avrebbe portato alla morte solo 13 mesi dopo. Come quasi tutte le persone della sua epoca, mia madre non era molto istruita, amava la vita a più non posso. Amava vivere, cercava la compagnia allegra e, appena poteva, ballava da far invidia a certi ballerini. Appena le è stato possibile, ha affidato mia sorella alle suore mentre io sono andato in un collegio, rimanendovi fino al conseguimento della terza media. Ho sempre sentito un certo vuoto interiore, già da piccolo, ma quando ho conosciuto il Vangelo nel 1964, Cristo ha riempito la mia vita e a Lui ho consacrato, senza riserve, volontà, obiettivi e mente. Il mio cambiamento fu netto e evidente. E mia madre se ne accorse subito. Immediatamente pensò che fossi stato vittima del raggiro di una setta. Ma in seguito, vedendo la mia sobrietà e la serietà dei miei ragionamenti, si ricredette e fu molto curiosa di vedere e di sapere quali persone frequentassi. Fu così che venne con me ad un raduno biblico di giovani che studiavano la parola di Dio. In quel campo giovanile vi era un predicatore che parlava molto energicamente del Vangelo, chiedendo, alla fine della predicazione, se qualcuno volesse scrivere la sua opinione in merito a quello che udiva. Mia madre è sempre stata riluttante nello scrivere, perché cosciente del suo scarso italiano, ma in quella occasione scrisse su un foglio di block notes le seguenti parole, che ancora oggi conservo. In questi 2 giorni di campo ho imparato tante cose che prima non sapevo, ma se questo avveniva tanto tempo prima, la mia vita poteva essere più serena e meno pesante, ma in ogni modo capisco che tutto quello che fanno questi ragazzi è molto bello e onesto. Peccato che io ormai sono avanti di età e non posso assolutamente studiare perché la mia salute e il lavoro non permettono di fare tutto quello che io credo che sia proprio la verità. Io sono cattolica ma non ho mai creduto a certe cose, per questo la mia vita non è mai stata attaccata a niente di vero e proprio. Dunque, anche mia madre capì subito di essere all'ascolto della verità, capì subito di dover prendere una decisione per Cristo, ma si discolpò dicendo di essere cattolica, anche se non ha mai accettato a scatola chiusa tutto il cattolicesimo. Come siamo strani. La nostra religione ci interessa relativamente, ma quando si tratta di schierarci in favore della verità, ecco che diventa la cosa più importante. Molto probabilmente la testimonianza più drammatica sta nell'ultima frase: per questo la mia vita non è mai stata attaccata a niente di vero e proprio. Un'anima ferita e profondamente delusa della vita e della religione, che non ha più il coraggio di prendere sul serio la verità. Forse per paura di essere delusa di nuovo. Perché? Perché nel suo intimo era religiosa, credeva religiosamente in Dio. Ma suo marito morì a 28 anni quando lei ne aveva 24. Era rimasta sola con 2 gemelli. La vita era stata tremendamente e crudelmente dura. E Dio dov'era? Perché aveva permesso tutto questo? La sua illusione si era trasformata in una profonda, disperata, insanabile delusione. Il predicatore aggiunse un appunto allo scritto di mia madre, ma anche questo non l'aveva aiutata più di tanto. Grazie della franchezza. Dio l'aiuterà. Non è lo studio della verità, ma è possedere Gesù che è la grande verità che rende veramente felice la vita. Dopo quel giorno, per circa 20 anni, mia madre continuò a frequentare delle riunioni nelle quali si predicava il Vangelo, rimanendo tuttavia apatica. Fino a giungere, poi, a lasciare con la massima indifferenza ogni cosa. Quando a 88 anni venne ad abitare in casa mia, per non rimanere da sola, quando mi recavo alle riunioni, frequentò di nuovo, ma rimase spaventosamente impassibile come prima. Poco dopo, iniziò ad essere ricoverata perché, a detta dei medici, ormai aveva poco da vivere. Ad ogni ricovero io le parlavo di Cristo, quale risposta ai suoi problemi spirituali e anche fisici, ma lei ascoltava, rimanendo disinteressata. Due cose mi sono rimaste impresse del suo comportamento. Quando le parlavo in modo radicale del Vangelo, affermando che se lei non avesse creduto sarebbe stata condannata alle pene eterne, la sua risposta era sempre quella: va bene così. Il che voleva dire: quello che è stato. Non devo fare nessun cambiamento. Anche quando aveva un filo di voce, quando sembrava che la morte stesse per rapirla, rispondeva continuamente con una freddezza sepolcrale: va bene così. Nessuna emozione trapelava dal suo cuore. Apatia totale. L'altro aspetto che mi ha impressionato è che affrontava l'argomento della morte come se non la riguardasse, al punto che un giorno mi disse: mi sembra di sognare, cioè mi sembra che tutto quello che mi sta succedendo non sia vero. Viveva come fuori della realtà, come se quello che le capitava non la riguardasse. Aveva un terrificante disinteresse per l'imminente e illimitato distacco da questa vita. Niente le importava. Disprezzo per il presente, disprezzo per l'ignoto futuro. Sono felice di aver ereditato da mia madre tante cose belle. Era una donna che si rallegrava con nulla, godeva a più non posso ogni aspetto positivo della vita, aveva un forte desiderio di aiutare gli altri. Non era attaccata al denaro, anzi, appena poteva soccorreva il prossimo. Come tutti aveva anche lei i suoi difetti. Era insopportabilmente nervosa e non trascurava di mettere in evidenza i difetti altrui. Spesse volte il suo modo isterico di reagire, anche senza una vera ragione, mi lasciava perplesso. Ma pochi sapevano che suo padre era un alcolizzato e senza dubbio questo avrà influito sul suo sistema nervoso. Che poi mettesse in evidenza i difetti degli altri era senz'altro un suo limite, perché lei riteneva giusto compiere questo favore affinché le persone migliorassero. Nulla di scusante, ma queste precisazioni servono per far comprendere maggiormente quanto noi esseri umani siamo complessi e complessati, cosa questa, che dovrebbe aiutarci ad essere più comprensivi di quanto in realtà siamo. Ora mia madre non c'è, è più. Alla sua morte ero ormai preparato, perché a 91 anni si può anche chiudere gli occhi sazio di giorni, ma a farmi effetto è che mia madre non c'è, è più. Non ci, è PA. Si fa presto a dirlo o a scriverlo, ma la realtà è che la sua persona su questa terra non ci, è più. Ancora più strano, è come se non ci fosse mai stata. Sia nel bene, sia nel male. Sia per cantare assieme, sia per litigare. Il suo sorriso non lo vedrò più, la sua voce non la sentirò più. Vedrò il sorriso di altri, udrò la voce di altri, ma lei, la sua personalità, la Lamberta, non potrò più. Né vederla, né sentirla. Com'è terribilmente reale la morte. Come rende terribilmente soli la morte. Quando muori sei solo, anche se sei circondato da numerosi familiari e amici. Sei tu che muori e gli altri non possono farci niente. Se dopo una giornata di sole viene la pioggia, sai che prima o poi torna il sole. Se soffri un mal di denti, sai che prima o poi il male passa. Se fai una litigata con qualcuno, sai che è sempre la speranza che tutto ritorni come prima. Ma la morte non ti lascia nessuna speranza. Mai e poi mai come prima. Tu sei costretto a vivere di ricordi, i quali aumentano il distacco dalla realtà. Se dopo la morte fosse possibile dimenticare tutto quel che ci è stato, non sarebbe poi un grande dolore. Invece, dopo la morte, sembra che le cose vissute come normali consuetudini della tua esistenza acquistino un valore sproporzionato. Mentre mia madre era in vita, era normale relazionarmi con lei, sia nel bene sia nel male, perché dopo tutto faceva parte della realtà della mia esistenza, ma ora che non ci è più, la persona che amavo sembra presente nella mia mente più di prima. Perché è la morte, la separazione eterna dal presente a suscitare questa sensazione, perché noi non siamo abituati ad una morte definitiva. Un'esperienza alla quale non ero preparato è stato il momento del suo decesso. Sono stato letteralmente invaso dalla consapevolezza di quanto siamo fragili. Ho visto la debolezza assoluta, la vanità dell'odio, l'inutilità del rancore e del male compiuto. Ho percepito come non mai che la morte fisica è la morte definitiva alla nostra arroganza. La morte di mia madre, ancora una volta, ha messo drammaticamente in evidenza come il decesso sia l'ultima cruda e crudele realtà. Infatti possiamo illuderci di trovarci in un posto e invece trovarci in un altro. Possiamo credere che siano le 4, mentre invece sono le 6. Possiamo pensare che oggi sia martedì e invece è venerdì. Ma con la morte no. Quando sei morto non puoi pensare di essere vivo, come quando sei vivo non puoi pensare di essere morto. Se anche tu pensassi di essere morto, è sufficiente che tu metta la mano sul fuoco per renderti conto dell'assurdità della tua convinzione. Così come se tu fossi morto, ti sarebbe sufficiente desiderare di mangiare un gelato per scontrarti con la tua realtà. La morte fisica non perdona, non tollera, non ammette eccezioni. Mia madre non la rivedrò mai, e poi mai più su questa terra con lei non farò mai più nessun discorso. Non potrò accarezzarla come tante volte ho fatto quando stavo in ospedale, quando lei, con una freddezza mortale e senza nessun minimo segno facciale, mi guardava con una indifferenza glaciale, che non capivo. Qualche volta, quando stava bene, mi diceva: «Lo so, Ellero, che sei un bravo ragazzo», e io non le ho mai chiesto cosa volesse dire. E non lo saprò mai, sapendo che non sono affatto un bravo ragazzo, perché spesso mi rimproverava di tante cose, penso che volesse alludere al mio coraggio di fare la scelta per Cristo, mentre lei non si è mai espressa in merito. Dopo la sua morte, una mia cugina, che l'ha assistita un mese prima, mi confidò che mia madre le ripeteva del continuo: «Non voglio morire, non voglio morire». Anche quando, dopo l'ultimo e affannoso respiro, le ho chiuso gli occhi, ho incontrato difficoltà a farlo, quasi che volessero restare aperti per carpire ancora la vita. Inutile parlare dei difetti di un morto, ma un ricordo di mia madre che porterò alla tomba sarà questo: tutto ciò che non rientrava nella sua logica era per lei nemico e a suo danno. Lei si riteneva padrona della sua vita, per questo non voleva morire. Ora capisco molto meglio il suo volto glaciale sul letto di morte, come comprendo la sua freddezza di fronte al passo più importante della vita. Mai più dimenticherò il suo solenne e categorico ripetere in dialetto: «La va bene a sé», cioè «va bene così, va bene così». Come ho detto, ho ereditato da mia madre tante cose belle e inevitabilmente anche quelle negative. Ma, per la grazia di Dio, se ho un atteggiamento diverso nei confronti della vita, se sono positivo, se vedo la morte un'amica e non più nemica, è perché ho scelto di lasciare a Cristo il governo della mia volontà. E, in ogni situazione, bella o brutta che sia, nel mio cuore abita una delle preghiere più importanti: «Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Questa preghiera vale se possiedo una mia forte volontà, se ho le mie ambizioni, se ho i miei desideri, ma il tutto è sottoposto al volere di Cristo. Ringrazio Dio per il dono di mia madre, perché lei mi ha aiutato a comprendere maggiormente le mie inclinazioni sbagliate. Mia madre mi ha partorito come peccatore, fatto a sua immagine e somiglianza, Genesi 5.3, ma Cristo mi fa vivere come santo e mi farà morire come vincitore, come lui è. Settembre 2011, Ellero.